Focus Economia. Sono le 17, 6 minuti e 40 secondi. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. La giornata, insomma, qualche notizia alla porta, ad esempio le vicende di Kraft e Cadbury. Come sapete, Kraft, che è il più grande gruppo alimentare americano, il secondo al mondo dopo Nestlé, vuole acquistare Cadbury, che è un'azienda da 46.000 persone, che in sostanza è uno dei più grandi produttori di cioccolata del pianeta, insomma, ma non solo, è più in generale un colosso del settore alimentare. Su questo si era scatenata una sorta di guerra. Cadbury ha ancora deciso di non accettare l'offerta di Kraft. Kraft ha deciso di alzare l'offerta facendo cassa e vendendo un pezzo della sua produzione a Nestlé, che teoricamente era un altro dei concorrenti in corsa. Parleremo di questo, parleremo della situazione della Grecia. Oggi c'è stato qualche aggiornamento sul fronte delle cifre fornite dal governo, mentre la Commissione europea a Bruxelles è in attesa dei nuovi aggiornamenti appunto dal governo, di qualche indicazione maggiore per quel che riguarda gli obiettivi di deficit. Al momento il deficit greco è intorno al 12,7%, dopo che il precedente governo, non quello attuale, aveva sostanzialmente truccato i conti, insomma aveva fornito delle indicazioni sul deficit che non erano quelle reali. E poi parleremo dell'economia americana. Ci sono dei dati interessanti che sono arrivati oggi. Sono dei dati che riguardano soprattutto i compromessi per l'acquisto di nuove case, letteralmente crollati del 16% rispetto al meno 2% che si attendeva, e qualche segnale positivo arriva invece dalle vendite al dettaglio, almeno per quel che riguarda l'ultima settimana. Ma più che altro cercheremo di fare un pochino il punto su come si prepara ad affrontare questo 2010 l'economia americana, in una giornata che vede i mercati parzialmente positivi. Ci sono ancora rialzi, anche oggi fa eccezione proprio l'America. In questo momento il Dow Jones cede lo 0,08%. A Milano, giusto per darvi un'idea, il FTSE MIB guadagna lo 0,20%, il FTSE All Share lo 0,40%, e più o meno sulla stessa linea si stanno muovendo le altre piazze finanziarie europee. 349-238-6666 per i vostri SMS, le notizie in breve di questa giornata. Iniziando come sempre dal petrolio che ha aperto oggi nuovo poco mosso dopo i forti rialzi dei giorni scorsi, ha aperto a New York ad $81,54 al barile. Si è rotta nel frattempo, proprio a proposito di petrolio, quella che sembrava una tregua da parte delle compagnie italiane per quanto riguarda i prezzi alla pompa, ossia i prezzi dei carburanti. Oggi Agip ha rialzato i prezzi sia della benzina che del gasolio, aumento di 1,8 centesimi al litro, è quel che ha rilevato Staffetta Quotidiana, che segnala come la verde è arrivata a 1,342 euro al litro, mentre il gasolio a 1,187. Fermo il GPL. Rialzi non se ne verificavano praticamente dalla fine dell'anno. Beh, sempre sul fronte carburanti, per chi ama queste cose, c'è anche una notizia curiosa che arriva dagli Emirati Arabi Uniti, che hanno adottato per la vendita della benzina per la prima volta il litro come unità di misura, abbandonando i galloni imperiali. Oltre 120 delle 450 pompe di benzina del paese hanno già completato la transizione dal gallone imperiale, che valeva 4 litri e mezzo al litro. Certamente negli Emirati Arabi Uniti di problemi di prezzo dei carburanti non ne hanno, di questo ne siamo, insomma, quasi certi. Sul fronte dell'economia internazionale c'è da segnalare una presa di posizione del Fondo Monetario Internazionale, ve la diamo brevemente. Il Fondo Monetario Internazionale rivedrà al rialzo le proprie stime sulla crescita mondiale, quello che dice sul sito internet dell'istituto il numero 2 del fondo, John Lipsky, sottolineando che le risposte alla crisi giunte dai governi e dalle banche centrali hanno evitato un rallentamento storico. Sul fatto della revisione al rialzo delle stime sulla crescita mondiale, insomma, vedremo praticamente ovviamente vengono riviste ogni mese, se non ogni paio di settimane, non solo dal Fondo Monetario Internazionale, ma da parecchi istituti internazionali. Insomma, vedremo quando le rivedrà, come le rivedrà e insomma, se poi queste stime verranno confermate dai dati reali. Ieri abbiamo parlato a lungo di inflazione in Italia, è stato fornito oggi il dato europeo che raccoglie in sostanza i dati appunto dei 16 paesi dell'area euro. L'inflazione nel mese di dicembre è stata pari allo 0,9% contro un tasso dello 0,5% di novembre, insomma un lieve rialzare la testa. Questo è quel che rileva Eurostat nella stima flash, così come la stima di ieri dell'Istat, anche questa è una stima preliminare, quindi anche qua ci sarà da attendere il dato definitivo. Dati sul fronte della disoccupazione arrivano da due paesi, arrivano dalla Spagna e dalla Germania. Il dato positivo, quello buono, arriva dalla Germania perché il numero dei disoccupati in dicembre è sceso di 3.000 unità, portando il totale di senza lavoro a quota 3,42 milioni. È poco, ma è comunque un segnale. Il tasso di disoccupazione è rimasto fermo all'8,1%. Situazione assai peggiore quella della Spagna, che dove la disoccupazione è schizzata ai massimi da oltre 10 anni a questa parte nel mese di dicembre. Secondo i dati forniti dal Ministero del Lavoro, il numero dei disoccupati il mese scorso è aumentato dell'1,41%, di 54.000 unità. Negli ultimi 12 mesi la disoccupazione in Spagna ha segnato un balzo del 25%, il tasso ufficiale si attesta al 19,3%, con l'Unione Europea, con Bruxelles, che prevede che arrivi al 20% entro la fine dell'anno, basandosi anche qua sulle stime del Fondo Monetario Internazionale. Vedremo che cosa succederà per la Spagna. Per quanto riguarda la Germania, poi c'è un'altra notizia che sarà curiosa, ma per le banche tedesche e non solo, anche per i consumi tedeschi sarà un piccolo problema, perché proprio adesso all'inizio dell'anno un bug informatico legato alla data del 2010 ha reso inutilizzabili 20 milioni di carte di credito e di debito. La falla si troverebbe nel software dei microchip delle stesse carte, che non riuscirebbero così a leggere la nuova data. Vedremo poi nelle prossime settimane, quando arriveranno i dati, che impatto e se ha avuto un impatto tutto questo sui consumi post natalizi. Veniamo all'Italia, parliamo del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha lanciato una nuova formula di contratti di innovazione tecnologica che, attivando investimenti per circa 2 miliardi di euro, favorirà la ricerca applicata e stimolerà nuove opportunità di lavoro per oltre 30.000 ricercatori. Questa è stata la comunicazione data dallo stesso Dicastero di Via Veneto in una nota. Il ministro Claudio Scajola ha firmato il decreto ministeriale che dà via libera a questi nuovi contratti. Abbiamo segnalato prima dei rincari che riguardano i carburanti. Vi abbiamo parlato nelle settimane scorse di rincari che sono arrivati un po' su vari fronti. Ce ne segnala un altro Confedilizia, perché dice che con l'inizio del nuovo anno scatta il rincaro delle spese per le cause condominiali e di locazione. Lo dice Confedilizia perché la finanziaria 2010 ha abolito il cosiddetto contributo fisso pari a 103,30 euro che era previsto fino ora, indipendentemente dal valore della causa. Così si determina l'applicazione degli ordinari contributi per scaglioni di valore. Quindi ad ogni scaglione di valore corrisponde un pagamento fino ad un massimo di 1.110 euro. Sempre dall'Italia una segnalazione, anche qua una notizia curiosa, insomma oggi ve ne stiamo dando qualcuna: la finanza creativa di un sacerdote veneziano che è impegnato da anni nella realizzazione dei centri per anziani ha inventato quelli che si potrebbero chiamare i bot del Vangelo o bond del paradiso per trovare i fondi che mancano al budget del centro Don Vecchi Quater di Campalto. Ha infatti messo in vendita azioni da 50 euro ciascuno che danno diritto a chi le sottoscrive di fruire della rivalutazione del valore dell'immobile. Anche questa è finanza creativa. Oh, finanza creativa a fin di bene, naturalmente. Siamo al settore auto, ieri ne abbiamo parlato parecchio per quanto riguarda l'Italia. Arrivano dati internazionali interessanti, quelli dal Giappone. Le vendite del 2009 hanno avuto un calo del 9,3%, attestandosi sotto quota 5 milioni per la prima volta in 31 anni. Vanno meglio le cose invece in Germania, dove le immatricolazioni di nuove auto sono calate a dicembre del 4,7%, ma nel 2009 il mercato è salito del 23% a 3,81 milioni, il miglior risultato dal 1992. Evidentemente erano anche gli incentivi messi in campo dal governo tedesco, lo sapete, ne abbiamo parlato anche ieri, sono stati fatti piuttosto bene. Per quanto riguarda la Spagna, invece, anche qua, confronto tra Germania e Spagna, impietoso. Il mercato 2009 ha segnato un calo del 17,9% rispetto al 2008, sono i dati peggiori dal 1995, il risultato è comunque migliore rispetto alle previsioni fatte ad inizio 2009, in quanto il piano governativo degli incentivi ha interessato oltre 260.000 vendite. Altre questioni interessanti che riguardano il mondo dell'auto ve le segnalo a flash, proprio che per l'ottavo anno consecutivo la Fiat si è imposta come la marca più venduta sul mercato brasiliano, perché oggi sono usciti i dati anche dal Brasile. E infine, sempre per quel che riguarda Fiat, o piuttosto lo stabilimento di Termini Imerese, che il Lingotto vuole chiudere, l'indiana Tata ha fatto sapere di non essere interessata a Termini Imerese, come invece voce invece circolata nelle settimane scorse. E per chiudere, una notizia internazionale, una dichiarazione che forse qualcuno si attendeva, arriva da Jerry Levin, l'uomo che architettò la fusione tra Time Warner e EOL, che chiede scusa per i dolori e le sofferenze causate dalla fusione mai decollata. Il mea culpa di Levin ai microfoni dell'emittente televisiva CNBC arriva proprio mentre EOL e Warner festeggiano i primi 10 anni di un matrimonio che è stato infelice e molto costoso. L'operazione aveva un valore all'epoca di 164 miliardi di dollari. E adesso parliamo di un'altra fusione, o meglio di una possibile fusione. E parliamo della possibile fusione tra Kraft e Cadbury. Se ne è parlato spesso nelle settimane scorse. Potrebbe creare un notevole colosso nel settore alimentare, sebbene Kraft già lo sia. Ricordavamo già qualcosa prima: il più grande gruppo alimentare americano, il secondo al mondo dopo la Nestlé, conta 50 marchi primari distribuiti in 150 paesi, impiega 98.000 persone. Nel 2008 il giro d'affari è stato oltre 42 miliardi di dollari e vuole comprarsi Cadbury. Inizialmente si pensava che ci volesse mettere lo zampino anche Nestlé, in realtà un'operazione avvenuta oggi farebbe supporre il contrario. La Nestlé è l'azienda, come sapete, elvetica, l'azienda svizzera che è il numero uno al mondo, ed è proprio per questo che andiamo dal corrispondente del Sole 24 Ore della Confederazione, Lino Terlizzi. Buonasera, Lino. Buonasera. Allora, che cosa è successo oggi? È successo che Nestlé ha acquisito da Kraft per 3,8 miliardi circa di dollari il settore delle pizze surgelate in Nord America, negli Stati Uniti e nel Canada, e quindi acquisendo praticamente la leadership in questo settore. E contemporaneamente Kraft ha affermato che utilizzerà questo incasso per rafforzare la sua offerta d'acquisto appunto sulla britannica Cadbury. Quindi in un certo senso si conferma che Nestlé ha un ruolo, seppure indiretto, perché allo stesso tempo Nestlé ha anche confermato che non farà offerte dirette lei per Cadbury, ma è un ruolo che sta giocando adesso più sul versante della Kraft a favore della multinazionale americana e non a favore, come invece si sospettava, di un altro gruppo americano alimentare, del cioccolato in particolare Hershey, che potrebbe essere pure interessato alla Cadbury, si è detto anche magari in alleanza con Ferrero. Quindi si stanno chiarendo un po' i tasselli di questa vicenda, da un lato complicata, ma dall'altra molto interessante, perché sta ridisegnando in certi aspetti il settore alimentare internazionale. Allora, ricostruiamo brevemente la vicenda. In settembre il gruppo Kraft ha presentato un'offerta da 10,2 miliardi di sterline, che sono circa 11 miliardi e mezzo di euro, appunto per acquisire la concorrente inglese Cadbury. La proposta è stata rifiutata dal CDA di Cadbury perché ritenuta troppo bassa. Con l'acquisto di Cadbury, lo ricordiamo, tanto per dire, Kraft eguaglierebbe a livello globale la quota di mercato di Mars, pari al 15% nel settore delle tavolette di cioccolata. Il 9 novembre la Kraft ha presentato l'offerta formale d'acquisto, appunto, della rivale Cadbury, e poi sono iniziate a circolare le voci su eventuali altri interessamenti. Lino Terlizzi citava già Hershey, già Ferrero, ma si parla anche di qualche fondo d'investimento americano. Allora, Lino, a questo punto quali sono le prospettive di questa operazione in generale e quale può essere il ruolo della Nestlé? Diciamo che ora la palla è nuovamente nel campo della Kraft, che appunto stamattina ha reso noto che è interessata ad aumentare, anche attraverso un'offerta delle sue azioni in cambio, quindi anche un'offerta di scambio, non solo danaro, quindi la sua offerta appunto per Cadbury. D'altro canto è uscita anche più tardi in questa giornata la presa di posizione di un azionista importante della Kraft, che è la Berkshire del finanziere americano Warren Buffett, che ha detto: attenzione, no, vogliamo vedere, vogliamo capire, perché non bisogna spendere troppo per l'acquisizione di questa Cadbury. Quindi c'è a questo punto anche un gioco interno tra gli azionisti del gigante Kraft, quindi la situazione appunto è interessante ma anche complicata, e tuttavia l'iniziativa è appunto nel campo della Kraft. Vedremo cosa accadrà da questo punto di vista, se il vertice attuale potrà andare avanti nell'aumento dell'offerta oppure no. La Cadbury ha subito appunto, come spiegavi, questa offerta, vedremo se il suo vertice cambierà opinione oppure no. La Nestlé vede a questo punto confermata la sua posizione, in un certo senso attendista, dello stare un po' alla finestra e poi cogliere l'opportunità di volta in volta su un versante o sull'altro per fare acquisizioni e per rafforzarsi in alcuni segmenti. Tanto è vero che molti analisti della piazza svizzera a questo punto sono convinti che Nestlé, è vero, non farà sue offerte dirette su Cadbury, però starà ancora lì a vedere se nello sviluppo di questa importante operazione potrà acquisire su un versante o su un altro alcuni pezzi, per così dire, alcuni segmenti della Cadbury stessa o di altri gruppi protagonisti. Allora, intanto Nestlé si è incamerata la divisione di Kraft che produce pizze surgelate per 3,7 miliardi di dollari in contanti. Saluto Dario Roncadin, amministratore delegato e azionista di controllo della Roncadin SRL. Buonasera. Buonasera. Dario Roncadin, perché lo abbiamo chiamato? Già lo sentimmo nell'agosto scorso, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, perché ci è sembrata una bella storia imprenditoriale italiana. In sostanza, la Roncadin la ricorderete, era quotata in borsa, poi fu delistata, acquistata dall'Arena. In sostanza, Roncadin che cosa ha fatto? Ha ricomprato la parte che produce pizze surgelate e ha fatto un accordo molto interessante, anche piuttosto innovativo dal punto di vista del marketing. Ossia ha messo insieme, dal marketing e non solo, del prodotto, ha messo insieme quattro grandi firme del settore alimentare italiano: Auricchio, Beretta, Nostromo, Wuber. E che cosa ha fatto? Produce delle pizze surgelate con questo marchio, con questi marchi, insomma, a seconda dell'ingrediente che ci va dentro. Sembra che si parli di pizze surgelate e si parli di poco. In realtà tenete presente che il mercato è in Italia da 219 milioni di pizze surgelate l'anno. Allora, iniziamo dal generale, poi ci racconterà Roncadin come stanno andando le cose per la sua azienda. Iniziamo dal generale e ci dica che effetto le fa il fatto che Nestlé acquisti sostanzialmente questa leadership fortissima nel mercato nordamericano, nel suo specifico settore. Roncadin, prego. Sì, intanto di nuovo buonasera. Comunque per noi è una cosa molto importante, perché oggi Nestlé e Cameo sono i due player in Europa e lo stanno diventando anche in tutto il mondo. Perché anche l'anno scorso Cameo ha appunto acquisito la Swans, che è sempre un gruppo americano, e quindi ha comprato la parte Swans europea. Stanno crescendo sempre di più e entrambi stanno puntando sempre di più non solo su prodotti di prezzo, quindi pizze da prezzo, ma anche categorie dette premium. Quindi noi che siamo un'azienda private label, quindi andiamo a fare il marchio della catena, è molto importante perché ci aiuta a crescere, perché Nestlé e Cameo devono investire moltissimi soldi in pubblicità, invece il private label cerca di investire direttamente sullo scaffale, quindi il private label sta crescendo molto, quindi io la vedo una cosa positiva. Perché in sostanza, dice lei, cresce il settore premium, come lo ha definito, e questo fa bene anche al nostro mercato, no? Esatto. Poi sia Nestlé che Cameo sono diventati degli specialisti sulla pizza, perché in Europa con vari marchi, Nestlé in Italia Buitoni, in Germania, in Austria come marchio Wagner, praticamente si dividono il 50% del mercato, quindi un 25% a testa, e Cameo anche in Italia tramite la pizza ristorante che tutti conosciamo ha rivalutato quello che era un prodotto da prezzo, da un euro trovato sullo scaffale, sul freezer. Tornerei da Lino Terlizzi e poi concluderemo con lei, Roncadin, proprio per capire come vi stanno andando le cose in quest'ultimo periodo, visto che ci siamo lasciati che l'8 settembre, se non erro, data in questo caso fausta, quantomeno per voi, si doveva inaugurare lo stabilimento. Lino Terlizzi, a quali pezzi di Cadbury può essere interessata la Nestlé? Ma diciamo, è chiaro che c'è il cioccolato, che è un prodotto storico della Cadbury, però ecco, lì bisognerà poi vedere se non ci saranno problemi di antitrust, per Nestlé è una posizione troppo forte proprio in quel comparto del cioccolato, e poi bisognerà vedere, perché Nestlé è presente un po' in tutti i settori principali, diciamo, di questo mercato. Si diceva anche che Nestlé potesse essere interessata ad alcuni prodotti, tipo le gomme da masticare sul versante della Hershey, che è una protagonista indiretta, l'americana, che forse sarebbe interessata pure lei a intervenire sulla Cadbury. Vedremo se a questo punto si ritirerà oppure no. Diciamo che la forza di un gigante come Nestlé è chiaramente di poter giocare un po' a tutto campo, perché è presente in molti segmenti, in molti comparti, ed è chiaro che si è messa, usando sempre un termine calcistico, se si vuole, si è messa un po' a centrocampo in questo momento, per cui si è messa con una posizione tale per cui può prendere un po' lungo tutto l'arco della sua presenza. Bene, grazie a Lino Terlizzi, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Svizzera. Noi chiudiamo ritornando da Dario Roncadini. Intanto un sms di qualcuno che ha memoria di com'era l'azienda precedentemente, ci dice, insomma, poi queste sono naturalmente affermazioni degli ascoltatori, quindi insomma non è, dice Roncadini è stata distrutta da Arena, bei tempi quando c'erano i fratelli Roncadin ed eravamo leader nel gelato, questo ci dice, quelli insomma probabilmente erano bei tempi, i tempi sono cambiati. Roncadin, come vanno le cose adesso? Beh, gli obiettivi li stiamo raggiungendo, perché l'anno scorso abbiamo chiuso con 20 milioni di pizze in 2 anni, e abbiamo già in piano per il prossimo anno 30 milioni di pizze come stabilimento, già in portafoglio. E come firme del gusto in particolare il progetto sta andando molto bene, perché in 3 mesi, ottobre, novembre e dicembre, abbiamo venduto circa 1 milione di pizze. Considerando che noi non facciamo della pubblicità come appunto fanno i grandi marchi, però abbiamo l'utilizzo di questi grandi marchi come Beretta, Oricchio, Nostromo e Weber, che ci aiutano molto nella vendita. Infatti noi investiamo molto nella degustazione, infatti nelle degustazioni noi facciamo assaggiare il prodotto e una persona su due poi va ad acquistare, e a febbraio del prossimo anno entrerà un nuovo marchio che è Carapelli. Quindi faremo una focaccia all'olio extravergine con il marchio Carapelli. Benissimo, grazie mille anche a lei, Dario Roncadin, e naturalmente in bocca al lupo per la sua impresa. Sono le 17:30 minuti, 28 secondi, noi ci ritroviamo subito dopo la pausa per il meteo e come sempre naturalmente parleremo di borsa tra poco. Le 17:34 minuti, 18 secondi, 349-238-6666 per i vostri sms. Vi segnalo intanto una notizia che arriva da Atene. La borsa di Atene ha chiuso in rialzo con un più 4%. Ve lo segnalo perché oggi è stato sostanzialmente aggiornato il piano per il rientro alla normalità dei conti pubblici greci con un lieve anticipo. Ne parleremo tra poco. Intanto parliamo invece della borsa, di quella italiana. Paolo Paronetto, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, la giornata complessivamente è di nuovo positiva. In negativo al momento c'è solamente l'America, un meno 0,37% sul Dow Jones, un meno 0,14% sul Nasdaq. La chiusura italiana invece anche oggi è col segno più. Comunque è stata caratterizzata, secondo gli operatori, da un clima molto tranquillo, complice le festività ancora vicine alla vigilia dell'Epifania. I listini europei comunque stanno diciamo confermando i rialzi messi a segno nelle ultime sedute. Milano al momento, no, gli indici non sono ancora definitivi, ma risulta una delle migliori tra le borse europee, e quindi diciamo che il clima continua a essere positivo pur in assenza oggi di grandi temi. Allora, FTSE MIB più 0,05%, FTSE All Share più 0,28%, giusto un quadro al resto d'Europa per chiarire meglio: Francoforte meno 0,27%, Parigi meno 0,03%, Londra in guadagno dello 0,45%. Veniamo ai singoli titoli. Ci sembra che oggi decisamente sia stata la giornata di Mediobanca, che svetta un più 2,98% sul FTSE MIB. Come mai, Paolo? Certo, Mediobanca è stata la migliore del listino principale fin dall'avvio della seduta. Ci sono una serie di temi che hanno contribuito a mettere in luce il titolo. In primo luogo un report degli analisti di Banca Akros, che hanno alzato il giudizio sui titoli di Piazzetta Cuccia, portando la raccomandazione ad accumulare dal precedente tenere, cioè hold. Inoltre Mediobanca, le notizie su tutti i giornali di oggi, ha confermato la propria leadership nella classifica degli advisor attivi in Italia nel settore delle fusioni e acquisizioni. Secondo i dati di Thomson Reuters, Mediobanca è prima per quanto riguarda il controvalore delle operazioni seguite. E in ultimo, Mediobanca rientra inoltre in uno dei temi della giornata, che è stato quello di Telecom Italia. Ci sono state infatti alcune indiscrezioni di stampa che sono state tuttavia smentite su una possibile acquisizione da parte di Telefonica dell'intero pacchetto azionario di Telco, cioè la holding di riferimento che controlla circa il 24%, anzi il 22% dopo l'uscita di Benetton di Telecom Italia. Indiscrezioni, come dicevamo, smentite, ma che comunque in una giornata con pochi spunti hanno contribuito a movimentare il mercato. Sì, tra l'altro è notizia che non ha mosso un granché il mercato, ma ve la diamo. Insomma, Mediobanca ha lasciato Mariella Burani Fashion Group con lo spettro sempre più minaccioso di un fallimento. Della vicenda di Mariella Burani parleremo tra poco. Voglio venire all'altro titolo che ha regnato oggi sul listino, Paolo, che è Fiat più 2,48%. Ieri abbiamo parlato diffusamente in trasmissione dei dati sulle immatricolazioni, fondamentalmente è questo ad aver mosso il titolo. Sì, esattamente, i dati sono arrivati come al solito alle 6, quindi a mercato chiuso, e oggi il titolo è stato premiato proprio sulla scia di quei dati. Ricordiamo brevemente che il mercato italiano è stato complessivamente piatto nell'intero 2009, e il risultato di un piccolo calo dello 0,17%, mentre Fiat ha visto aumentare le proprie vendite del 2,65%, il lingotto quindi ha fatto meglio del mercato, aumentando la propria quota al 32,82%. Oggi il mercato ha festeggiato questi risultati con un rialzo del 2,48% a 10,75 euro, e la performance di Fiat ha trascinato al rialzo anche la controllante Exor, che ha chiuso in rialzo di oltre un punto e mezzo al di sopra dei 14 euro. In questa giornata qualche titolo si muove anche sulla base dei report, il caso di Autogrill ci sembra di capire. Autogrill anch'essa è stata uno dei migliori sul FTSE MIB, ha guadagnato poco meno dell'1%. Oggi il titolo è stato promosso in questo caso dagli analisti di UBS, che hanno alzato il target price, confermando tuttavia la raccomandazione. Comunque questo è bastato a mettere in luce il titolo, che è stato tra i più acquistati sul listino principale. E veniamo ad uno dei titoli che sarà sotto i riflettori di borsa, lo possiamo dire con una certa tranquillità e senza tema di smentita nei prossimi giorni, ossia Unicredit, Paolo. Sì, Unicredit è stato oggi ha chiuso come il titolo peggiore sul FTSE MIB, in calo di circa l'1,5%, tra l'altro è stato anche uno dei pochi titoli con volumi abbastanza consistenti, sono stati scambiati oltre 100 milioni di titoli, ormai il mercato con il nuovo anno inizia a fare i conti con l'imminente lancio dell'aumento di capitale da 4 miliardi, proprio oggi in serata, secondo quanto scritto dal Sole 24 Ore, in agenda un vertice tra l'istituto e gli advisor per definire i dettagli tecnici dell'aumento che poi saranno all'esame del consiglio di amministrazione di dopodomani. L'inizio della trattazione dei diritti è previsto per lunedì e quindi insomma ormai siamo alla vigilia dell'aumento e il mercato inizia a scontare questo evento. Dunque vedremo che cosa succederà. Nei giorni scorsi vi abbiamo aggiornato spesso sull'andamento delle matricole di quest'anno che sono state relativamente poche, le ultime comunque Hughes e House Building in particolare sembra proseguire la sua corsa piuttosto insomma indifferente agli andamenti di mercato. House Building è stata l'ultima matricola del 2009, ha esordito proprio sul finale il 29 dicembre, anche oggi una giornata molto positiva e dopo un andamento abbastanza volatile, è andata molto bene all'inizio per poi ovviamente essere colpita dai realizzi nella seduta di ieri, oggi un altro Exploa ha chiuso come miglior titolo dell'intero listino milanese con un rialzo del 19,37% a 6,1 euro. Un'ultima domanda, Paolo, abbiamo parlato in apertura della vicenda Kraft Cadbury, si sono mossi i titoli dell'alimentare anche sulla base di una certa effervescenza sul fronte acquisizioni in questo settore? Certo, il settore alimentare in tutta Europa, in tutto il mondo è tra quelli su cui c'è maggiore attenzione, oggi il settore a livello europeo ha perso circa il 2% il sottoindice di settore e risente proprio dell'andamento di Cadbury che a Londra ha perso il 3,35%, il titolo ha risentito della nuova bocciatura da parte dei vertici di Cadbury alla nuova offerta proveniente dagli Stati Uniti, che è stata giudicata anch'essa irrisoria da Kraft, che invece a Wall Street in questo momento sta guadagnando oltre il 3%, il 3,4% per essere precisi, e in questo caso a premiare il titolo è la notizia della vendita a Nestlé delle attività statunitensi nel settore delle pizze. Quindi il settore è sicuramente tra i più su cui gli investitori sono più attenti e l'andamento però è abbastanza discordante e si basa sulle notizie che riguardano i vari dossier aperti. Grazie dunque anche per oggi ai colleghi di Radio Cori Il Sole 24 Ore, grazie in particolare a Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, un quadro finale di giornata, quantomeno sul FTSE MIB di Mediobanca, Fiat ed Exor, vi abbiamo detto, bene anche Tenaris più 1,23%, un punto percentuale di guadagno per il Banco Popolare, così come per Autogrill e Fondiaria, Generali e la Banca Popolare di Milano intorno allo 0,8% di guadagno, più 0,70% circa per la Popolare di Milano, per Atlantia, per Eni e per il Monte dei Paschi, intorno allo 0,60% Telecom Italia, Italcementi più 0,41%, così come intorno allo 0,40% si attestano Mediolanum, CIR e Pirelli più 0,30%, vicini alla parità appena sopra Campari, Impregilo, Luxottica, UBI Banca, Parmalat e ST Microelectronics chiudono in perfetta parità, in lieve calo troviamo Geox meno 0,05%, Lottomatica poco sotto, così come Saipem e Unipol, Enel meno 0,18%, meno 0,24% per Prismian, Bulgari meno 0,34%, Ansaldo meno 0,45%, oltre il mezzo punto percentuale di ribasso Snam Rete Gas, Mediaset, Buzzi Unicem, A2A Intesa San Paolo e Terna che cede lo 0,76%. Mondadori in calo di oltre un punto percentuale, così come Finmeccanica, e circa un punto e mezzo percentuale di ribasso per Unicredit, come già vi riferiva il nostro Paolo Paronetto. Per quanto riguarda il cambio dell'euro sul dollaro, 1,43,95, linea alla viabilità, parleremo tra un attimo delle vicende di Mariella Burani. :17:45, 23 secondi, parliamo dunque della vicenda di Mariella Burani. Buonasera Monica D'Ascenzo del Sole 24 Ore. Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Allora, parliamo di un gruppo da circa 2.000 dipendenti, indebitamento netto al 30 novembre, poi Monica ci dirai se c'è qualche dato più aggiornato, a 492 milioni e titolo azionario sospeso dal 28 agosto. Insomma, parliamo di uno storico marchio del Made in Italy che della crisi probabilmente, e non solo, ha risentito un pochino più degli altri e che a questo punto rischia concretamente il fallimento. Che cosa sta succedendo in queste ore, Monica? L'ultima notizia è legata proprio a quello che accennavi tu prima, il fatto che l'advisor Mediobanca ritiene concluso il suo mandato. Mediobanca aveva il mandato di trattare da parte di Mariella Burani con le banche creditrici per una ristrutturazione del debito da 492 milioni, è l'ultimo aggiornamento, quello che tu citavi. Per la ristrutturazione del debito è necessaria per salvare il gruppo. Il gruppo che ha una ramificazione molto complessa e ha diverse controllate, fra cui Antichi Pellettieri, che è quotata a Piazza Affari, che è la parte più sana ed è quella per cui le trattative con le banche stanno procedendo. Invece sul resto del gruppo sembrano al momento bloccate. Ma qual è il punto? Sono questioni di finanza o sono questioni industriali quelle che stanno portando Mariella Burani sull'orlo del fallimento o un mix di queste due? Sono principalmente questioni di finanza perché il gruppo si è ingrandito negli ultimi anni attraverso acquisizioni. Questo ha fatto sì che il debito arrivasse ai livelli attuali che non sono sostenibili con i ricavi e gli utili che il gruppo riesce a produrre. In questo caso sarebbe necessario un aumento di capitale anche perché l'ultimo dato erano di perdite eccessive rispetto alla patrimonializzazione del gruppo e l'aumento di capitale sarebbe necessario per ripianare appunto queste perdite. L'aumento di capitale è stato votato il 16 novembre scorso ed è di 82 milioni. La famiglia Burani, che detiene la quota di maggioranza della società, ha detto che avrebbe partecipato con 50 milioni. La questione sono proprio questi 50 milioni. Le banche creditrici, prima di ristrutturare il gruppo, il debito del gruppo, vogliono vederli. Ancora non si sono visti. Allora, nella vicenda di Mariella Burani, così come nelle vicende di molte aziende italiane e non solamente, anche nelle vicende di aziende estere, a dominare talvolta sono appunto le questioni familiari. Il ruolo della famiglia in tutto questo, la famiglia Burani. La famiglia Burani è l'azionista di maggioranza e esprime, diciamo, ha espresso fino al settembre scorso le figure di vertice di questo gruppo. Walter Burani resta il presidente, Giovanni Burani, che era amministratore delegato, ha lasciato il passo a invece un amministratore delegato che viene dall'esterno. Però è successo soltanto nel settembre scorso e probabilmente anche su pressione delle banche creditrici, proprio per cercare di dare al gruppo una gestione più manageriale e meno familiare. Ci sono state anche accuse di aggiottaggio, se non sbaglio, all'interno della famiglia. Ci sono stati problemi di questo tipo? C'è un'inchiesta della Procura di Milano che fra i diversi capi di accusa ha anche quello di aggiottaggio e di falso in bilancio relativo all'esercizio 2008. La Procura di Milano peraltro ha in mano il fascicolo e potrebbe chiedere da un momento all'altro il fallimento del gruppo. Sta temporeggiando, da quanto ci risulta, secondo appunto alcune indiscrezioni, proprio per salvaguardare i piccoli azionisti che in questo caso hanno investito in Mariella Burani in borsa e potrebbero veder sfumare il loro investimento se la società fallisse. Infine Monica, secondo la tua visione, insomma, che più o meno hai seguito questa vicenda negli ultimi mesi, le prospettive effettive quali sono? Cioè, l'ipotesi di un fallimento è reale, è sul campo o alla fine, come spesso accade in questi casi, si arriverà ad un salvataggio da parte delle banche? In questo caso le banche hanno puntato i piedi più che in altri casi. Sono mesi che chiedono alla famiglia Burani di poter vedere questi 50 milioni che dovrebbero ricapitalizzare l'azienda Questo sembra una condizione sine qua non. Quindi se questi 50 milioni non ci saranno, non credo che le banche andranno incontro all'azienda. Quello che potrebbe avvenire, se ci saranno i tempi e i modi, potrebbe essere l'intervento di un cavaliere bianco, e in passato si è parlato di una società coreana. Però resta molto difficile, perché industrialmente l'unico valore del gruppo sembra essere Antichi Pellettieri, che ricordo controlla Coccinelle, Mandarina Duck, giusto per dare qualche nome. Sì, per dare qualche nome, giustamente. E invece il resto del gruppo, anche industrialmente, ormai è andato deteriorandosi in questi mesi, e quindi sarebbe difficile come salvataggio anche dal punto di vista industriale. Insomma, chissà se le banche hanno puntato i piedi, anche perché i debiti non sono così elevati, insomma, e quindi probabilmente gli conviene, no? Cioè metterli a bilancio tutto sommato, non sarebbe così tutto sommato disastroso. Non sarebbe così disastroso metterli a bilancio. Probabilmente hanno visto che non c'erano le possibilità, perché in altri casi invece sono venuti incontro. Faccio un altro esempio, quello di Valentino, sempre per restare nella moda. Valentino, con una ricapitalizzazione di all'incirca 250 milioni da parte di Permira, che è il private equity che lo controlla, è riuscita a abbassare il suo debito di un terzo. Quindi a 1,5 miliardi, abbassandolo di 750 milioni. Quello probabilmente le banche l'hanno concesso, ma perché c'è stata una forte ricapitalizzazione. In questo caso invece il dubbio è proprio la mancanza di soldi. In questo momento la famiglia Murani ha detto che è in trattative con una banca libica per creare questo fondo di garanzie da 50 milioni. Bene, grazie a Monica D'Oscenzo del Sole 24 Ore per essere stata con noi. Dalle difficoltà economiche e finanziarie di un'azienda, o di alcune aziende, perché non è solo di quella che abbiamo parlato, passiamo a parlare delle difficoltà economiche e finanziarie di uno Stato. Beh, delle difficoltà economiche di uno Stato in parte abbiamo già parlato ieri, ma non è quello di cui ci occupiamo oggi. Insomma, ieri abbiamo parlato di Dubai, perché si inaugurava questo maxi grattacielo, il grattacielo più alto del mondo. Tra l'altro ci siamo sbagliati, perché ieri abbiamo detto 819 metri, in realtà sono 828, quindi ci correggiamo oggi e facciamo la nostra rettifica. Invece lo Stato del quale ci occupiamo oggi è la Grecia. Buonasera a Vittorio Darold, che di queste cose si occupa sempre per il Sole 24 Ore. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, la Grecia si sta preparando a discutere questa settimana con i funzionari della Commissione Europea la bozza di un piano di stabilizzazione. Un piano di stabilizzazione che era atteso per questi giorni. In realtà c'è una missione della Commissione Europea in arrivo ad Atene. Nel frattempo arrivano nuovi aggiornamenti dal governo, che oggi ha riunito un maxi vertice economico per quella che è oggettivamente l'emergenza più grande, non solo per la Grecia, ma probabilmente per l'area euro dal punto di vista economico. Vittorio, che cosa è successo oggi? Dunque, oggi allora il governo sta preparando questo piano che naturalmente è pluriennale, perché non si riesce a rientrare da un deficit del 12,7 in poco tempo. Ci vorranno appunto almeno fino al 2013, quello che spera appunto il governo di poter riuscire a fare e a convincere l'Unione Europea. Qual è la novità? Che tutti i mercati si aspettavano che Atene, che in realtà deve come tutti presentare i suoi conti entro la fine del mese, quindi entro il 31 gennaio, facesse un po' da apripista e, resasi conto della situazione, anticipasse il piano. In realtà ci sono dei problemi, e quindi che cosa è successo? Che in maniera un po' rocambolesca gli ispettori della UE, compresi dei membri della BCE, della Banca Centrale Europea, andranno domani a verificare sul posto il piano. Piano che poi andrà verificato dal governo, approvato dal governo greco, dal Parlamento, e successivamente presentato all'Ecofin, all'Eurogruppo e dopo a Bruxelles. Insomma, c'è stato un po' di un pasticcio, diciamo, metodologico, che i mercati sono rimasti un po' sorpresi da questa situazione. La situazione è che, voi sapete, la Grecia quest'anno deve andare sul mercato per 54 miliardi, cioè dovranno rifinanziarsi per una cifra notevole. Una cifra notevole. E Nonostante questo, devo dire la verità che oggi la borsa di Atene ha reagito piuttosto bene. Insomma, l'indice ha fatto segnare in chiusura un più 4,01%, tutto questo anche sulla scorta delle dichiarazioni del premier greco Papandreou, che ha chiesto ai responsabili economici del governo appunto di accelerare l'attuazione delle misure per portare il deficit di bilancio sotto il 3% entro il 2012, contro una previsione precedente che era entro il 2013. In qualche modo però sembra che i mercati si fidino di questo esecutivo, Vittorio. Sì, si fidano, ma il vero problema non è quello del 2013, il vero problema è quello di quest'anno, cioè il problema è se loro riusciranno a tagliare i conti nella previdenza, nelle privatizzazioni, da cui dicono che dovranno ricavare 2,5 miliardi. Insomma, devono cercare di dare un segnale che nell'immediato dia stabilità a questo paese e gli consenta di uscire insomma, da questa turbolenza molto grave. Gli spread con i bund sono diventati, adesso sono tornati a 230, ma era arrivato a 280. Insomma, i costi sono elevati. Questo qui è un elemento fondamentale, perché qual è il 2010, quale sarà il tema del 2010? Il tema del 2010 saranno il cosiddetto la bolla dei debiti pubblici, cioè il debito sovrano. Questo è il vero problema, cioè tutti andranno sui mercati, tutti hanno debiti molto elevati perché hanno dovuto aiutare le proprie economie, hanno dovuto aiutare le banche che erano in difficoltà, hanno dovuto insomma in qualche modo fare delle spese non previste. Quello è il sistema appunto keynesiano. Classico, quando c'è la crisi si interviene, lo Stato fa da volano. Ma tutto questo oggi porta a dei grossi problemi, perché i debiti pubblici sono gonfiati e c'è una concorrenza, cioè c'è più gente che va sul mercato per chiedere titoli di Stato. E questo crea una grossa concorrenza per i piccoli paesi. È chiaro, perché dovendo scegliere tra l'acquistare, per così dire, debito pubblico americano piuttosto che debito pubblico greco, naturalmente nessuno avrebbe dubbi, almeno dovendo andare sulla certezza, magari andando sulla speculazione, uno potrebbe anche scegliere il debito pubblico greco. Vittorio, che cosa si propone di fare Atene? Perché dovrà andare sul mercato, e ce l'hai detto, per 54 miliardi di euro circa, sì, per quest'anno. Che cosa altro deve fare? Che tipo di piano di intervento presenterà a Bruxelles? E, altra domanda che ti aggiungo, ci sono rischi sistemici secondo le indicazioni che riusciamo a trarre da Bruxelles o dai mercati per l'Europa? Dunque, la Grecia deve fare quello che devono fare tutti più o meno, cioè passato il momento difficile bisogna ricominciare a rimettere i conti in ordine. Che cosa deve fare? Deve ridurre la spesa pubblica, che è una spesa per alcuni versi improduttiva, e soprattutto rimodulare le pensioni, il welfare, che è abbastanza generoso. Poi deve privatizzare, questo lo hanno già detto, hanno messo in cantiere ci sono un paio di banche da privatizzare, forse si parla anche di un settore molto interessante che è quello dell'energia elettrica. Insomma, devono mettere come al solito in vendita i gioielli di famiglia. Ma la cosa più difficile, ed è su questo che le agenzie di rating stanno guardando, è se riusciranno a tagliare la spesa pubblica, quella appunto previdenziale o quella dei salari pubblici. Che cosa vuol dire? Se tu sei in una moneta, in un'eurozona, e sei in difficoltà, tu non puoi svalutare perché non hai questa possibilità, questa classica via di fuga della svalutazione. Allora cosa puoi fare? Devi fare quello che ha fatto l'Irlanda, cioè l'Irlanda, ricordiamocelo, ha ridotto i salari pubblici del 20%, quindi ha ridotto una cosa molto, molto impopolare, e questi temono che in Grecia appunto i sindacati non siano affatto d'accordo. Non consentano questo. Ti chiedo di rimanere ancora un attimo con noi. Adesso c'è il giornale radio e poi parleremo proprio del rischio di sistema che ci può essere per l'Unione Europea e per l'area euro, perché il primo paese dell'euro a rischio default, e parleremo subito dopo il GR anche di Stati Uniti, i conti pubblici dei quali insomma preoccupano un pochino, naturalmente non a questi livelli, ma preoccupano un pochino anche a Washington, il GR. Le 18, 8 minuti, 12 secondi, giusto un riepilogo di borsa prima di proseguire il discorso sulla Grecia. Il FTSE share ha chiuso in guadagno dello 0,17%, il FTSE MIB dello 0,05%, in una giornata che ha visto in luce in particolare i titoli Mediobanca, Fiat ed Exor, più 2,98, più 2,48 e più 1,5% rispettivamente, in negativo Unicredit, meno 1,46%, in attesa delle notizie sull'aumento di capitale. Un paio di risposte agli SMS, ci chiede Roberto se domani la borsa è aperta. Sì, domani la borsa è aperta e saremo in onda, quindi se vuole ascoltare gli aggiornamenti come al solito alla solita ora intorno alle 17:35, insomma, glieli potremo dare. E invece a Renzo, che ci dice perché dovremmo essere contenti quando va bene la borsa, sono o no gli speculatori responsabili della crisi? La realtà è che forse saranno pure gli speculatori responsabili della crisi, anche se sulle cause della crisi e sulle concause di questa crisi, che è una crisi epocale, il dibattito sulle responsabilità non è aperto, è ultra aperto. Comunque gli speculatori hanno un loro ruolo. La realtà è che in borsa non investono solamente gli speculatori, ma ci sono tantissimi piccoli risparmiatori che magari hanno investito quei 10, 20 mila euro, 30 mila, 40 mila, anche 50 mila, che magari sono il risparmio di una vita, e che sono naturalmente interessati a sapere come vanno i mercati azionari, perché hanno deciso di mettere i soldi lì invece di tenerseli sotto il materasso. Infine a Davide, che fa i complimenti a nostra Monica D'Ascenzo per la chiarezza d'esposizione sulla vicenda di Mariella Burani. Naturalmente glieli riferiremo se, insomma, se non è in ascolto, e magari perché sta lavorando, insomma, su nuovi articoli sul tema. Eravamo rimasti con il nostro Vittorio D'Arold sul tema dei conti pubblici greci, e la domanda in sospeso era: rischi di sistema per l'Europa di un eventuale default greco. Vittorio. No, rischi di sistema sono esclusi. È chiaro però che c'è per la prima volta un elemento di novità, cioè una zona, un membro dell'eurozona ha un forte deficit imprevisto, perché il deficit era dal 3%, 3,5%, è salito poi al 6%, poi dopo le elezioni il nuovo governo ha rifatto i conti e, come spesso accade, si accorge che, insomma, era schizzato al 12,7%. Questo è l'elemento nuovo. Come spesso accade in Grecia, non è usuale che un governo lasci un deficit dicendo che al 4% e quello successivo se lo trovi al 12,7%. No, insomma. No, assolutamente, questa è una cosa tutta, effettivamente un record greco, che tra parentesi ha il debito poi di Eurozona più alto. Però, insomma, succede che a volte, insomma, il governo entrante si trova qualche sorpresa, no, nel rifare i conti. Qual è l'elemento? Quindi escluderei un problema di sistema, però è la prima volta che un membro dell'Eurozona ha questo tipo di problema. Normalmente si usa allora il patto di stabilità, cioè il patto di stabilità ti costringe a rimetterti in regola, altrimenti dai delle sanzioni per invitarti con sistemi più convincenti a rientrare. Ma le sanzioni, in un momento in cui un paese ha già un problema di debito, sono chiaramente un sistema per affondarlo ulteriormente. Chiaro. Quindi si rimette in discussione il sistema europeo, cioè non c'è un ministero del tesoro comune che può intervenire in questi casi. Ecco perché questo è il vero problema della Grecia, cioè la Grecia pone un problema strutturale all'Europa. C'è la banca centrale, ma non c'è un cosiddetto Ministero del Tesoro Comune. C'è certamente l'Eurogruppo, c'è l'Ecofin, ma sono sempre riunioni dei vari ministri, tra pari. Nessuno può dire a un ministro di fare una cosa a posto di un'altra. Invece ci vorrebbe appunto un maggior coordinamento, quello che noi chiamavamo Mister Eurogruppo, cioè il numero, un ipotetico Ministero del Tesoro. Sì, che l'efficacia sanzionatoria dell'Europa sia piuttosto scarsa su questi fronti, insomma, ne abbiamo parlato parecchio, non solamente in merito alla Grecia, ma anche in merito a problemi di bilancio di altri paesi. Tra l'altro, per rimanere, giusto per chiudere un pochino l'argomento, per rimanere in tema di paesi mediterranei, non parliamo del nostro, giusto per chiarire, ce n'è un altro che sembra avere qualche problema. problemino, Vittorio. Sì, infatti ci sono oggi i giornali turchi hanno dato notizia dell'arrivo di una missione del Fondo Monetario che starebbe trattando per la concessione di un prestito stand-by di circa 20, dai 20 ai 25 miliardi di dollari. La cifra è notevole, se ne parla, a dir la verità, da più di un anno di questo prestito, perché l'ultimo è scaduto nel giugno del 2008 addirittura. La Turchia ha sempre un po', diciamo, cercato di avere meno pressioni da parte del fondo, perché come voi sapete quando il fondo dà un prestito costringe il paese a una serie di misure per rientrare. Ed è anche questo il motivo, ad esempio, per tornare alla Grecia, per cui si era paventato a un certo punto che il Fondo Monetario potesse intervenire a sostegno della Grecia, perché in quel caso l'effetto, diciamo così, di pressione che si faceva sul governo greco era molto maggiore, perché il fondo ti dà questo prestito, ma a condizione che tu rispetti una serie di misure molto forti. Anzi, il prestito viene concesso di solito anche a rate, perché se tu non rispondi e non corrispondi alle aspettative non arriva la seconda rata. Bene, grazie Vittorio D'Arold per tutti questi chiarimenti, poi magari nei prossimi giorni vedremo invece di tornare su paesi forse anche un pochino più vicini e che sono in grandissima difficoltà. Oggi vi abbiamo fornito un paio di dati sulla Spagna molto interessanti sul fronte della disoccupazione e anche sull'andamento delle vendite di auto, e già il nostro Vittorio D'Arold citava il caso dell'Irlanda, che è un caso interessante perché sono state le due tigri, se così vogliamo definirle, d'Europa, che con la crisi, evidentemente basandosi su dei sistemi economici troppo esposti, su una crescita economica troppo esposta a determinati movimenti di mercato, insomma, si sono ritrovati veramente in pessime acque entrambi i paesi, Irlanda e Spagna. Grazie dunque a Vittorio D'Arold. Adesso la linea alla viabilità, ci ritroviamo subito dopo, parliamo di economia americana. Le 18:16 minuti, 30 secondi, la borsa americana in questo momento è in ribasso, il Dow Jones cede lo 0,22%, il Nasdaq è praticamente in parità, un meno 0,01%, pesano in questo caso alcuni dati arrivati nella giornata di oggi, a partire dai compromessi sull'acquisto di case che sono letteralmente crollati, un meno 16% su base mensile contro previsioni per un ribasso più modesto del 2%, su base annua l'indice ha segnato però una crescita del 19,3%, quindi è un dato parzialmente positivo, così come parzialmente positivi sono gli ordini all'industria in novembre più 1,1% sopra le attese. Poi le vendite al dettaglio aumentate dell'1,6% su base annua nella settimana al 2 gennaio. È sceso il volume delle vendite nelle 5 settimane di dicembre del 4,6% rispetto a novembre, però è aumentato dell'1,8% rispetto al dicembre 2008. Quindi qualche segnale, insomma, positivo sembra cogliersi. Buonasera a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, che si trova in realtà ad Atlanta. Che cosa c'è ad Atlanta, Mario? Ad Atlanta c'è la riunione annuale degli economisti, una specie di grande circo dove c'è un cosiddetto mercato del lavoro, i giovani economisti si presentano con le loro credenziali, ci sono tutte le università pronte ad intervistarli per eventualmente assumerli, ci sono anche istituzioni pubbliche, ministeri, quindi c'è questo grande job market, ma è anche l'occasione per discutere, per fare il punto su quello che sta capitando nel mondo, nell'economia, nel post-crisi, e dunque un po' tutti i grandi nomi sono qui. Ho incontrato in questi giorni da Joe Stiglitz a Paul Krugman a vari altri che ovviamente sono presenti nei vari seminari e ragionano, pontificano e spesso dicono, devo dire, cose molto interessanti su quelle che sono le nostre prospettive. Se allora, posso dare una rapidissima sintesi, sì. Direi che la cosa più interessante è che gli economisti, soprattutto di stampo keynesiano, sono preoccupati dall'attuale situazione, ritengono che questi miglioramenti, abbiamo visto per esempio ieri la produzione industriale in generale è andata abbastanza bene, oggi poi questi dati di cui tu parlavi un po' meno incoraggianti, ecco, loro dicono attenzione perché nel corso dell'anno, una volta che la spinta del pacchetto di stimoli si andrà ad esaurire, il rischio è che l'economia davvero rallenti e che ci troviamo in un'altra situazione di crisi, soprattutto sul fronte mutui immobiliari. Gli economisti invece più conservatori sono altrettanto preoccupati, ma sono preoccupati per ragioni opposte, perché ritengono invece che il governo americano abbia fatto troppo in materia di interventi e soprattutto abbia introdotto alcune novità dal punto di vista di regole, dal punto di vista di spese più di tipo sociale che non di tipo produttivo, che quindi impediscono alla crescita di procedere in modo più rapido. Quindi, partendo da posizioni diverse, un po' tutti esprimono la stessa preoccupazione. Mario, dalle colonne del Sole 24 Ore, proprio oggi abbiamo visto citata una data, il 1937. Sono parole di Paul Krugman. Che cosa dice Krugman e qual è il sentimento degli economisti là ad Atlanta? Dunque, guarda, è proprio con Krugman, devo dirti, ho chiacchierato a lungo perché ci siamo trovati in uno dei bar del Marriott Marquise ieri. Krugman ieri è stato onorato tra l'altro dall'Associazione degli Economisti perché ha preso il premio Nobel nel 2008 e quindi è l'occasione in cui si rende omaggio a chi ha ricevuto il premio Nobel l'anno prima, e quindi lui mi raccontava come mai e perché era giunto a questa conclusione, e cioè che il 1937, quando Franklin Delano Roosevelt aveva ormai avviato da qualche anno un piano di rilancio dell'economia attraverso una forte spesa pubblica, aveva poi deciso, confortato dal fatto che le cose sembravano migliorare, di tirare un pochettino i remi in barca. Ecco, nel momento in cui l'ha fatto, c'è stata improvvisamente questa forte ricaduta dell'economia, e lui avverte con una piccola ricostruzione storica e con dei paralleli che secondo lui rischiano di essere inquietanti, che il quadro in cui ci troviamo non è diverso da allora. E devo dirti, mi ha detto uno di essere molto pessimista, proprio quando gli ho chiesto come si sentiva dal punto di vista del futuro immediato dell'economia, e così proprio ha quasi cambiato faccia dicendo: ma guarda, veramente mi trovo molto preoccupato, molto preoccupato. E l'altro punto è che appunto gli elementi macroeconomici di fondo che vediamo oggi non sono molto dissimili, secondo lui, da un punto di vista di dinamica, da quello che capitò allora negli anni 30, quando si cercava di uscire dalla depressione. Ecco Mario, questo mi sembra un elemento di discrimine fondamentale per capire un altro tema che hai affrontato nei tuoi servizi e nei tuoi articoli da Atlanta nei giorni scorsi, ossia la posizione di Ben Bernanke. Una posizione molto difficile, perché l'altro giorno Ben Bernanke, lo hai scritto sul Sole 24 Ore, ha dichiarato: siamo pronti ad intervenire nel caso vi fossero altre bolle speculative, il che in sostanza vuol dire siamo pronti a rialzare i tassi. Dall'altra parte abbiamo un Krugman, ascoltatissimo economista, premio Nobel del 2008, che dice invece: occhio che dalla crisi non siamo ancora usciti, bisogna stare molto attenti. E sembra quasi che il presidente della Federal Reserve sia un pochino stretto tra queste due ipotesi. Insomma, da una parte il rischio di finire un po' come finì Alan Greenspan, ultra celebrato durante il suo mandato alla Federal Reserve, e poi trattato male, insomma, mal considerato per aver tenuto i tassi troppo bassi e troppo a lungo, aver così consentito la creazione di una bolla speculativa, e dall'altra parte appunto il rischio invece che la recessione non sia finita e quindi un rialzo dei tassi possa portare di fatto ad una nuova ricaduta. Mario. Sì. Sono, direi, due tempi diversi. Quando Ben Bernanke parla di possibile aumento dei tassi di interesse per sgonfiare una bolla speculativa, in effetti introduce una rivoluzione copernicana, perché nel 2002, affrontando lo stesso argomento, lo stesso Bernanke escluse qualunque ipotesi di poter usare i tassi di interesse come strumento per sgonfiare una bolla. Quindi il primo passaggio è un passaggio, diciamo, di filosofia importante. Il suo approccio è un approccio più strutturale di medio-lungo termine, cioè nel momento in cui dovessero verificarsi queste bolle, noi saremo pronti ad intervenire con i tassi di interesse se, ed è questo un punto molto importante, se le regole adottate dal Congresso o nel contesto del G20 non dovessero essere applicate nella loro pienezza o non dovessero risultare sufficienti. Quindi Bernanke sottolinea: il primo livello di difesa deve essere nelle regole, perché le regole possono essere confezionate su misura per andare a sgonfiare quella bolla specifica. In America bastava introdurre un deposito del 30%, del 20% per ottenere dei mutui immobiliari, per subito togliere quel surriscaldamento del mercato che si è andato poi a verificare. Invece il livello era dello 0%, quindi chiunque compra una casa con i soldi in prestito, se poi la casa perde di valore, fallisce e non perde una lira, perché tanto i soldi sono tutti della banca. Se invece la casa acquista di valore, la rivende nel giro di poco e fa il guadagno sulla differenza. Ecco che diventava questa operazione immobiliare esclusivamente speculativa. Ecco, se avessero introdotto allora, e avrebbero potuto farlo, dei margini minimi di deposito, ecco che già con questa piccola regola si sarebbe andato a contenere il problema bolla immobiliare. Ecco, quindi il primo livello di difesa, e su questo devo dire sono tutti d'accordo, deve essere quello di regole ben precise che vadano a scoraggiare la speculazione finanziaria fine a se stessa. Nel momento in cui questo non dovesse funzionare, ecco, interverranno poi i tassi di interesse. Questo non significa che ci sia una bolla già in formazione oggi o domani. Qualcuno ha interpretato, diciamo, il suo avvertimento in relazione alla borsa, che ha avuto questa corsa straordinaria da marzo adesso. Però, come abbiamo discusso in una precedente trasmissione, in realtà, se ne va a vedere in termini reali, i valori di borsa di oggi non sono dei valori di bolla, sono dei valori addirittura inferiori a quelli del 1999 in termini reali. Quello che invece preoccupa dal punto di vista dei tassi di interesse è quello che ha detto Cohn, che è un altro governatore della Federal Reserve, il quale ha lasciato intendere che invece bisogna cominciare a pensare a una exit strategy e quindi a drenare liquidità del mercato in tempi brevi. E questo è un po' il dibattito che avviene nel contesto del Comitato Monetario della Federal Reserve, il quale comitato ha detto che per ora non si farà nulla, che l'economia deve essere forte prima di poter... però nel momento in cui si dovessero registrare segnali di inflazione o di ripresa che va, allora ecco che si potrebbe rientrare sul fronte dei tassi. Ecco, questo è il punto su cui economisti come Krugman, come Stiglitz, come Simon Johnson non sono d'accordo. Un altro punto, in particolare Stiglitz e Johnson, ecco, hanno attaccato molto Ben Bernanke. Tu dicevi che in effetti il governatore della Fed oggi, sotto molti punti di vista, si trova un po' sul piedistallo, è stato nominato uomo dell'anno, per esempio, da Time Magazine. Ecco, secondo Stiglitz, premio Nobel anche lui per l'economia, o secondo Johnson dell'MIT, è stato un errore catastrofico, perché se Ben Bernanke avesse utilizzato lui stessi quegli strumenti di regolamentazione nei confronti delle banche per limitare gli eccessi speculativi, forse non saremmo dove siamo adesso. E grazie dunque a Mario Platero, che ci ha dato anche un quadro di questo inizio d'anno economico negli Stati Uniti. Naturalmente potrete continuare a leggerlo sul Sole 24 Ore, a leggere questi report da Atlanta, e poi insomma torneremo a parlare con Mario Platero nei prossimi giorni, perché sono attesi dati piuttosto importanti dagli Stati Uniti, anche la disoccupazione tra l'altro. Dunque grazie a Mario Platero proprio dagli Stati Uniti. Vi segnalo, prima di chiudere, una notizia che riguarda l'America, ma non solo l'America, perché le vendite di veicoli Chrysler sul mercato americano in dicembre sono scese del 4%, dato corretto per giorni lavorativi, meno 10,5%, inferiore però alle attese degli analisti, quindi parziali buone notizie per Fiat. Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia. Grazie a Barbara Bianchi in redazione, a Pietro Lacorte in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.